vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 23 maggio il sole in regione è sorto alle 5.27 e tramonterà alle 20.42. Mercoledì c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. La ripresa del mercato del vino del Friuli Venezia Giulia nel servizio di apertura, un settore da una parte paralizzato per un anno dalle chiusure di bar e ristoranti, dall'altro capace di trovare canali di sfogo anche nella grande distribuzione che oggi riparte per consolidare i mercati di riferimento dell'export. Nel corsivo di Enos Costantini l'invito a ripensare il modello agricolo vigente a partire dall'eccessivo utilizzo dei concimi di sintesi. L'agricoltura tra rivoluzione verde e transizione ecologica aspetta i fondi del Recovery Plan nella sezione delle normative. Nella rubrica dedicata alla frutticoltura l'invito a provare a convertire parte dei terreni a coltivazione di uva da tavola, una scelta possibile grazie anche ai mutamenti del clima e che in Piemonte ha già preso l'abbrivio. Per la ricerca universitaria, i risultati di un'analisi condotta sul gradimento da parte dei potenziali acquirenti, tutti studenti, di smartphone che siano almeno parzialmente realizzati con plastiche biodegradabili di origine vegetale. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Il vino va, si può riassumere così questo primo scorcio di anno in materia enologica. Sono stati mesi di preoccupazione, quelli segnati dalla pandemia e dai lockdown, anche per questo importantissimo settore dell'agricoltura del Friuli Venezia Giulia. Chiediamo a Rodolfo Rizzi, presidente regionale di Assoenologi, che cosa sta cambiando. Questo periodo di lockdown ha creato grandissimi problemi, non solo al settore dell'agricoltura, non solo al settore del vino, ma un po' a tutti. C'è stata una forte selezione. Chi non era preparato ha sofferto più degli altri. Oggi però vediamo che c'è un risveglio. I mercati sono in fermento e questo lo sta dimostrando le forti richieste sia di vini sfusi, quali Prosecco e Pinot Grigio, per gli imbottigliatori anche fuori dalla regione, sia la richiesta anche di prodotto imbottigliato in visione di questa nuova apertura che ormai è in atto. Uno dei settori che hanno sofferto di più è stato proprio l'Horeca, naturalmente, ristoranti, accoglienza, hotel, bar. Ma sicuramente questo è stato il settore che ha fatto pagare di conseguenza anche tutte le nostre piccole aziende, perché il Friuli Venezia Giulia è formato nei suoi 28.000 ettari di vigneto, è formato anche da tante piccole aziende che hanno basato la loro commercializzazione su questo segmento di mercato. Oggi con questa apertura c'è proprio come fosse un dopoguerra del vino italiano, perché abbiamo proprio questa voglia di uscire, questa voglia di festeggiare la fine del lockdown e quindi c'è un risveglio e una richiesta di prodotto da parte dei ristoratori verso le aziende. Rodolfo Rizzi, la distribuzione, la grande distribuzione del vino ha tenuto anche durante la pandemia, durante i lockdown? Se consideriamo che la grande distribuzione nel 2019, quindi prima della pandemia, stava soffrendo e aveva il prodotto in calo nel settore vino, con l'avvento della pandemia ha fatto un boom, perché la gente non ha abbassato i consumi, ha solo diversificato l'approvvigionamento, quindi non c'erano più gli aperitivi serali, ma c'erano gli aperitivi in casa e quindi la gente si è approvvigionata presso questi grandi centri di distribuzione, che dobbiamo dire che sono preparatissimi e hanno dei reparti dedicati al vino e all'enologia con persone specializzate, quindi non sviliscono il vino, bensì lo rafforzano. E per quanto riguarda l'e-commerce? Ma l'e-commerce sarà sicuramente un futuro, anche perché noi stiamo cambiando anche le generazioni. Noi siamo un paese tradizionalmente enologico. L'e-commerce con il settore vino è partita dall'1% dell'intero venduto, oggi stiamo attorno ai 4%. C'è ancora moltissima strada da fare, c'è moltissimo lavoro da fare sulle piattaforme distributive. Ovviamente è presto per parlare di vendemmia, tuttavia qualche segno c'è già, considerate anche le bizze del meteo di questa persona. primavera. Con la gelata dell'8 aprile abbiamo avuto un po', soprattutto in certe zone di ristagno e nelle zone di pianura, in qualche zona di pianura abbiamo avuto un po' di perdita di prodotto. Adesso abbiamo un maggio che si sta un po' comportando come fosse in autunno e quindi può creare qualche problema alla vite, visto che la vite soffre molto l'umidità in questa fase di crescita. Però dobbiamo dire che gli agricoltori si stanno attrezzando soprattutto sul discorso della sostenibilità ambientale, perché oggi è uno dei temi fondamentali sia per produrre in campagna ma soprattutto per rivolgersi al mercato, perché la gente è consapevole, l'agricoltore prima di tutti, che il territorio deve essere salvaguardato. Parliamo di mercato, il prosecco, la ribolla, il pino grigio adesso, sono questi i tre assi ancora nella manica dell'agricoltura regionale per quanto riguarda il vino? Se noi pensiamo che negli anni 70 avevamo il 55% di produzione di vini rossi, oggi ci attestiamo al 15% di produzione di vini rossi e le varietà prosecco, pino grigio e ribolla fanno oltre il 60% dell'intera produzione regionale. Quindi questa deve essere sicuramente una delle bandiere che dobbiamo difendere e promuovere per il prodotto friulano, perché se prima pensavamo che la globalizzazione fosse la panacea di tutti i mali, oggi invece anche il consumatore vede che nella località, nel suo territorio, riesce a trovare quelle soddisfazioni che prima non vedeva. I mercati di riferimento dell'export regionale restano sempre gli stessi? C'è qualcuno che si affaccia? Diciamo che i maggiori mercati negli USA o come Germania o Regno Unito, adesso con la Brexit c'è qualche piccolo problema ma tutto è risolvibile, si stanno affacciando altri mercati come nell'estremo oriente, come può essere la Cina, il Vietnam o l'India, ma sono dei mercati ancora poco attivi. Noi dobbiamo puntare sui brand importanti, quindi come si diceva prima, con brand unici come può essere il Prosecco, come può essere il Pinot Grigio, che sono ormai dei brand a livello mondiale conosciuti, e quelli di conseguenza andranno a trainare l'intera produzione anche regionale fatta di piccole eccellenze e che sempre si distinguono sul nostro territorio. Un numero per dire quanto vale la vitivinicoltura in regione? La vitivinicoltura oggi vale e dà un valore perché si vedono che grossi player stanno cercando di investire nella nostra regione, e questo a mio avviso è un vantaggio. È un vantaggio, uno, perché dobbiamo tener conto che il territorio non si sposta, due, perché riusciamo a portare dei nuove idee, riusciamo a portare nuovi capitali e dar lavoro alla nostra gente. Vino annacquato dell'Europa. Noi ci siamo subito schierati contro, perché sicuramente sono delle pratiche che vanno un po' contro la nostra tradizione. È anche vero che dobbiamo un attimo anche tenere conto di nuovi mercati che si aprono. Se nuovi mercati si aprono, tipo mercati del Medio Oriente che vogliono i vini dealcolati e quant'altro, l'importante è che non si chiami vino. Il cambiamento climatico va limitato e per farlo uno dei punti da cui partire è un ripensamento del modello agricolo, ci dice nel suo corsivo della domenica Enos Costantini, perché la nostra agricoltura, anche quella del Friuli Venezia Giulia, è comandata da una triade di tre sostanze chimiche che, se è vero che hanno rappresentato per la produzione un incredibile propellente nell'ultimo secolo, lo è altrettanto che non sono certamente a costo ambientale zero. NPK non è una nuova serie di papere nicche, è la triade, la troica, la sacra trimurti dell'agricoltura attuale. L'acronimo sta per azoto, fosforo e potassio, base di ogni ricetta di concimazione. Come dire, però, Russia, Marocco e Canada. Sì, perché le più grandi riserve di potassio si trovano in Canada e quelle di fosforo si trovano in Marocco, mentre l'azoto è legato alla Russia. Veramente anche l'aria del Friuli avrebbe il 78% di azoto, tanto invisibile, trasparente e inconsistente che ci è indifferente. Altrove, però, oltre un secolo fa, si è imparato a trasformarlo in esplosivi. È finita la guerra in concimi chimici azotati che hanno fatto salire a razzo le produzioni. Non capite il legame con la Russia? È semplice. Per fare tali concimi si parte dall'ammoniaca, che si fabbrica unendo l'azoto dell'aria con l'idrogeno, e l'idrogeno lo porta il metano, CH4, cioè il gas di Putin. Tale processo ha bisogno anche di tanta energia, visto che servono 18.500 kcal per fare un chilo di azoto di sintesi. In un anno di questo azoto se ne consumano nel mondo circa 100 milioni di tonnellate e ogni giorno 260.000 tonnellate di concime finito. Il metano ti potrà anche dare una mano, ma se gli impianti perdono anche solo il 5%, allora diventa peggio del carbone come impatto sul clima. E non date la colpa alle incolpevoli vacche che fanno solo il loro dovere eruttando metano dal rumine. Se le vacche ingeriscono alimenti quali il mais, per produrre i quali è richiesto tanto azoto di sintesi, allora date pure la colpa a Vladimir, non alle cornute compagne degli ultimi 10.000 anni di storia. Guerre, tensioni politiche, speculazioni finanziarie possono rendere aleatorio il rifornimento di NPK. Il cambiamento climatico in atto va contenuto pena la sopravvivenza del genere umano, o perlomeno della società democratica a cui siamo abituati. Ci punge vaghezza che sarebbe opportuno ripensare il modello agricolo, cominciando da un minor consumo di NPK. Non aspettiamoci qui un salvatore della patria o un uomo della provvidenza. Sta a noi, qui e subito, chiedere che al giornale radio si parli meno di Balon e più di NPK, che non è una nuova serie di Paperi Nick. A fine aprile il governo italiano ha trasmesso a Bruxelles il tanto atteso Recovery Plan. A Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti Friuli Venezia Giulia, chiediamo quali sono gli interventi a favore dell'agricoltura. All'interno del sito istituzionale www.governo.it è disponibile il Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, quello che comunemente viene chiamato Recovery Plan e che, almeno ufficialmente, è stato la causa della caduta del Conte Bis. Si tratta di un documento di 266 pagine che illustra in modo semplice e schematico gli obiettivi e le risorse a disposizione per realizzarli. Io invito gli ascoltatori a scaricarlo e a esaminarlo con attenzione, visto l'impatto che avrà nei prossimi anni in tutti i settori produttivi. L'agricoltura giocherà un ruolo importante? Degli oltre 191 miliardi di euro a disposizione dell'Italia, divisi circa metà tra sovvenzioni e prestiti, si vede subito che il capitolo più consistente, circa un terzo dell'intero programma, è intitolato Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica. Questo non significa che tutti questi quattrini saranno destinati alle imprese agricole, ma è evidente che moltissime azioni, anche indirette o trasversali, avranno un impatto sul settore primario e con esso dovranno confrontarsi, tanto in fase di progetto che di attuazione. Facciamo degli esempi. 15 miliardi sono allocati sotto la voce tutela del territorio e della risorsa idrica. E questo è un tema fondamentale per l'agricoltura in Friuli Venezia Giulia, terra storicamente ricca di acqua, ma che negli ultimi anni ha sperimentato sempre più frequenti crisi idriche. Investimenti per attenuare il rischio idrogeologico, migliorare l'efficienza degli acquedotti, migliorare gli impianti di depurazione e la gestione delle acque reflue sono tutti interventi estremamente importanti per le imprese agricole, anche se non realizzati direttamente da esse. Ci sono 800 milioni destinati allo sviluppo di infrastrutture logistiche per i settori agroalimentare, della pesca, dell'acquacoltura e della silvicoltura. 500 milioni per la digitalizzazione e l'ammodernamento del parco macchine con l'obiettivo di ridurre le emissioni e l'utilizzo di agrofarmaci. E poi ci sono numerosi interventi trasversali, teoricamente a costo zero, dei quali l'agricoltura, come tutti gli altri settori, potrebbe trarre enorme beneficio. Una fra queste, la semplificazione amministrativa, ma su questo, scaramanticamente, preferisco non entrare nel dettaglio. Con Raffaele Testolin, professore di frutticoltura, parliamo oggi di una nuova possibilità per gli agricoltori regionali, quella di piantare nei loro terreni viti di uva da tavola, una coltura che sembrava essere appannaggio del Sud Italia, ma ad aprire la strada ci hanno già pensato i piemontesi. Chi ha detto che in Friuli non si può produrre uva da tavola? Molti sono convinti che l'uva da tavola si può coltivare solo al sud. Ma i cambiamenti climatici in atto e qualche accorgimento tecnico che sveliamo agli agricoltori potrebbe invogliare qualche friulano ad abbandonare il mais e cimentarsi con l'uva da tavola. Direte che ce l'ho con il mais. È vero, non sopporto il paesaggio friulano con 80.000 ettari di mais. È la negazione della biodiversità agricola. Come dicevo, l'uva si può coltivare anche al nord e viene bene, ma per venderla sul mercato e fare reddito dobbiamo evitare di competere con il sud, che produce uva in abbondanza e inonda i mercati estivi di mezza Europa. Cosa deve fare l'agricoltore friulano? Deve coltivare uva da tavola molto tardiva che maturi in ottobre e, lasciandola in pianta riparata dalla pioggia, ci sono i teli antipioggia, gli stessi che abbiamo visto per il ciliegio, raccoglierla e venderla nei mesi di novembre e dicembre. Il friulano può offrire un prodotto più fresco e meno stanco di quello che arriva dal sud sotto le feste di fine anno. Non datemi del matto. Questa cosa l'hanno capita gli agricoltori del Cuneese che da qualche anno producono uva da tavola tardiva, appunto, con grande soddisfazione. Se lo fanno loro, possiamo farlo anche noi. Un consiglio per chi vuole coltivare l'uva da tavola in giardino. Scegliete varietà resistenti alle malattie che richiedono 2 o 3 trattamenti all'anno contro i 15-20 delle varietà non resistenti. Io coltivo in orto da alcuni anni 2 varietà di uva da tavola, una bianca che si chiama Lasta e una nera che si chiama Black Magic. Vengono dai paesi dell'est e maturano in settembre. Hanno poco da invidiare le varietà che trovate sul mercato. Sono rustiche, buone e croccanti e soprattutto sono prodotte da voi. Le piante le trovate facilmente presso i vivaisti anche in regione. A febbraio le trovate anche presso l'azienda agraria dell'università in via Pozzuolo. Buona fortuna a chi vuol provare. Nuove tecnologie e atteggiamento dei consumatori. E questo è il titolo di una ricerca condotta all'Ateneo di Udine dalla professoressa Stefania Troiano, che insegna economia ambientale e delle risorse. Di cosa si tratta, professoressa? Si tratta di uno studio volto a comprendere l'interesse dei giovani consumatori per prodotti che siano stati creati con materiali sostenibili dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico. Abbiamo in particolare proposto a questi giovani consumatori che abbiamo intervistato, 551 studenti, diverse tipologie di smartphone. In particolare abbiamo chiesto loro se fossero disponibili ad acquistare e a pagare degli smartphone in cui il dorso, la back cover, utilizzasse dei materiali plastici alternativi, cioè rispetto alla plastica convenzionale, dei materiali plastici biodegradabili ottenuti da colture agricole, quindi da composti di amido di mais, ad esempio oli vegetali e così via. Quello che abbiamo osservato è, da un lato, l'elevato interesse che ha suscitato questa proposta. Sebbene, ecco, dall'altro lato abbiamo visto, e già lo sappiamo anche da precedenti studi, che c'è una certa diffidenza poi nel compiere azioni concrete, nell'acquistare prodotti che ambientalmente hanno un basso impatto ambientale. Questo l'abbiamo visto anche da questo studio. C'è una grossa percentuale di studenti, oltre il 48%, che ha dichiarato di essere disponibile ad acquistare uno smartphone in cui il dorso è fatto proprio di materiale plastico biodegradabile proveniente da colture dedicate. C'è comunque una parte di studenti che invece è più legata ad uno smartphone convenzionale, sebbene anche questa classe di consumatori si sia dimostrata propensa verso materiali plastici che vengono da scarti alimentari. Questo, ecco, mette in evidenza delle opportunità comunque economiche per l'avvio di colture che siano dedicate alla produzione, ecco, di materie prime per la creazione di plastiche alternative, biodegradabili e quindi meno impattanti. Con Amos D'Antoni vediamo ora l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo con prezzi cedenti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole del Campo di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 25,80 e 26 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 22,40 e 22,70. L'orzo non è stato quotato in attesa del nuovo raccolto. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 9,30 euro e il frumento di 3 euro al quintale. Contrattazioni discrete all'ortofrutticolo di Udine con prezzi in movimento, l'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate tra 1,30 e 1,40 euro al chilo IVA esclusa, le zucchine tra 1,10 euro, i cavoli tra 1,30 e 1,60 euro, le melanzane tonde e i pomodori in grappolo da 1,20 a 1,30 euro, i peperoni gialli e rossi italiani tra 2,40 e 2,50 euro, il radicchio rosso tondo e quello di Treviso si quotano da 2,50 a 2,60 euro, gli aspargi bianchi tra 3,50 e 4,50 euro, le fragole extra italiane da 2,50 a 5,50 euro, i meloni tra 1,80 e 2,20 euro, le nettarine da 3 a 4 euro, le pesche da 3 a 3,50 e le albicocche da 2,60 a 4,50. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo ancora precarie, i prezzi sono lievemente sostenuti. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 27 a 35 euro al chilo IVA esclusa, le sogliole da 7 a 25, il mazzancolle da 35 a 39, i calamari e i calamaretti da 25 a 31, le canocce da 5 a 15, le passere da 14 a 17, i latterini da 9 a 10 e le capesante da 11 a 17. Infine, movimento in ribasso nel settore dei foraggi, dove il fieno Mazengo di pianura viene quotato tra 13,50 e 14 euro al quintale IVA esclusa, l'erba medica di prima qualità tra 17 e 18 euro, quella pellettata a 23 euro al quintale, mentre la quotazione della paglia di cereale pressata oscilla tra 11,70 e 12 euro al quintale. E con il previsore dell'ARPA Osmer Sergio Nordio diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Maggio sta continuando a portarsi giornate fresche e piovose e ci stiamo avviando a registrare nuovi record. In alcune località sono già stati superati i cumulati di pioggia molto elevati del 2019 e del 2013, ma un bilancio definitivo lo faremo fra un po' di giorni. Al momento siamo sempre interessati da correnti atlantiche a tratti più umide ed instabili che stanno contrastando l'aria calda presente su gran parte del Mediterraneo. Lunedì, l'approfondimento di una depressione sulla Francia provocherà un sostenuto afflusso di correnti sudoccidentali molto umide sulla regione e nei giorni successivi tale depressione provocherà ancora condizioni di instabilità. Domani avremo cielo in prevalenza coperto con piogge estese da abbondanti ad intense, specie sulle zone più interne della pianura e della zona montana. Saranno possibili anche dei temporali, specie dal pomeriggio. Martedì è prevista nuvolosità variabile, con maggiori schiarite sulla costa, ma su tutte le zone saranno ancora probabili rovesci e temporali sparsi, con moderato vento da sud o sud-ovest sulla costa. Finalmente, da mercoledì e venerdì dovremmo avere un lieve miglioramento, con cielo da poco nuvoloso variabile, ma nei pomeriggi sarà ancora possibile qualche locale rovescio o temporale, specie nelle zone più interne. Le temperature nella prima parte della settimana saranno stazionarie, le massime su pianura e costa fra 20 e 23 gradi. Successivamente saliranno intorno a 24-26 gradi. Verso la fine della settimana la previsione è ancora piuttosto incerta. È probabile che ci siano giornate abbastanza soleggiate e più calde, ma rimarranno anche possibili temporali pomeridiani. Riteniamo quindi molto opportuno consigliare di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni. Termina qui la puntata, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano, il clip di mai al svei il cai, ovvero il tepore di maggio sveglia la chiocciola. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.